Avrebbe potuto organizzare un corso che per gradi li avrebbe avvicinati alle infantili scorrazzature. Sarebbe iniziato in sordina, con piccoli richiami, per proseguire poi passo dopo passo verso maggiori livelli di abbandono, fino al compimento di prodezze quali scalare alberi, andar per nidi, sgattaiolar fuori di casa la notte per rubare mele. Mentre formulava questi pensieri, vagando desolata per il giardino deserto, Robert e Letditti, al sicuro a casa della nonna, pasteggiavano come ogni sera con i più squisiti knödel. Bocconi prelibati che scendevano giù per la gola ben caldi e cotti a puntino, e tanto graditi al loro corpo non meno che se fossero state parti di esso tolte in precedenza. Durante i pasti la nonna, con l'indice sollevato, li ammoniva a intervalli regolari dicendo: «Bambini miei, non dimenticatevi mai che siete tedeschi!» Non le era rimasto nulla nella vita, ora, se non la compagnia di se stessa, come disse a Herr Dremmel quella prima domenica che Robert e Letditti sarebbero dovuti ritornare, ma per qualche oscura ragione non poterono farlo. Esternando quel pensiero con scarso tatto all'ora del tè, mentre divideva l'attenzione del marito con un libro nella cui lettura era immerso. Dopotutto, disse come sempre in modo alquanto repentino, infrangendo un silenzio che Herr Dremmel considerava prezioso, io ci sono ancora. Herr Dremmel non disse nulla, dato che fortunatamente si trattava di una di quelle affermazioni che a suo modo di vedere non richiedevano risposta. Nessuno può negarlo, disse Ingeborg sollevando un po' la testa. Di nuovo Herr Dremmel non disse nulla, soprattutto perché non avrebbe saputo che cosa dire. Non aveva infatti né tempo né voglia di tirare a indovinare il senso di cose che apparentemente di senso non avevano alcuno. Sì, qualsiasi cosa succeda, io avrò sempre me stessa. Ingeborg, disse Herr Dremmel, non oso chiederti a che cosa ti stia riferendo per paura che tu me lo dica. Erano giorni di terribile siccità e Herr Dremmel, che spesso si vantava della sua indole amabile, non era paziente come al solito. Pertanto Ingeborg, presto ridotta al silenzio, uscì di casa in un modo reso abbacinante e incandescente dall'arsura, riflettendo su come la sua felicità ora dipendesse solo ed esclusivamente da se stessa. Era sciocco dipendere da altri ed era ancor più sciocco dipendere, come aveva fatto, accecata dalla sua ridicola vanità, da chi a sua volta dipendeva da lei. Dopotutto ogni anno aveva una primavera e gli uccelli avrebbero cantato ancora. Decise che avrebbe mandato via il personale in esubero e avrebbe svolto i lavori di casa da sé, proprio come nei primi tempi. Avrebbe incominciato fin da subito ad ampliare la sua cultura e a tal fine avrebbe scritto a Londra prima di sera per ordinare lo Spectator. Ricordava che negli anni passati, dopo l'incontro con Ingram, qualcosa l'aveva aiutata a riscaldare l'anima e ad ampliare gli orizzonti della mente. Si trattava forse dello Spectator? Inoltre, si sarebbe data un sacco di compiti e avrebbe preparato un'infinità di prospetti con diciture in inchiostro rosso. Erano migliaia le discipline che avrebbe potuto mettersi a studiare, come le lingue straniere, ad esempio. Percorreva il giardino avanti e indietro. Se anche questa volta si fosse lasciata andare all'abbandono e all'indifferenza, allora sarebbe stato davvero la fine. Ora di certo nessuno l'avrebbe mai soccorsa. Sarebbe caduta in una spirale sempre più discendente, che non l'avrebbe condotta in quell'universo di pace e di pinguedine in cui piombavano altre donne tedesche nel venire private dei figli, donne di una classe appena superiore a quella di coloro che vedevano nel lavatoio l'unico strumento di salvezza, né in quell'altro universo, fatto di inerzia, sonnolenza e placidità, che permetteva alle mani di continuare a sferruzzare mentre la mente a poco si intorpidiva fino a cadere nel sonno della morte. Nel suo caso, quella spirale l'avrebbe portata ad essere una vecchia, irritabile stizzosa, con un cervello atrofizzato e avvizzito che degenerava inesorabilmente. Di fronte alla prospettiva, i suoi occhi si dilatarono per l'orrore. Adesso, che nella sua vita era giunta quella pausa, era arrivato il momento, pensò, distogliendosi da quella visione, di andare in Inghilterra per far visita ai suoi parenti, rivederli, parlare con loro e poi, rinfrancata, ritornare a Cökense per aprire un nuovo capitolo della sua esistenza. Se si escludeva Zoppot, dal suo matrimonio non aveva mai messo piede al di fuori di Cökense e ogni volta che pensava all'Inghilterra sentiva un groppo serrarle la gola. In realtà il vescovo non le aveva mai perdonato quel suo matrimonio e anche l'aver generato 6 figli sembrava, da quel che si poteva evincere dalle lettere che un tempo le scriveva la madre, aver prodotto su di lui una pessima impressione. Anzi, ne era rimasto sconvolto. Aveva ritenuto quel tipo di condotta eccessivamente prona ai canoni tedeschi per passarvi sopra senza indispettirsi. che quando la figlia aveva sommato al cattivo gusto di averne avuti in tal quantità anche l'altro errore o piuttosto negligenza di non essere riuscito a tenerli in vita, un comportamento criminale aveva ritenuto il vescovo, egli, dopo aver presentato le proprie condoglianze per ben 4 volte con crescente severità, si era rinchiuso in una disapprovazione così profonda e possibile da esprimere adeguatamente solo attraverso il silenzio. Ed essere ospitata a casa di Judith era fuori di discussione. Chi veniva ospitato a casa di Judith doveva avere vestiti nuovi in gran quantità e lei non ne aveva, o perlomeno non più nuovi di quanto lo fossero 8 anni prima. Il suo immenso corredo, ancora nuovo, che la perseguitava lungo gli anni, pensò. Poiché Judith dava numerosi ricevimenti presso la residenza del rettore, brillanti consessi, le aveva definito una volta sua madre in una delle rare lettere, dove Londra, sotto le spoglie del primo ministro, nonché di un numero di altri notabili, della più alta aristocrazia e delle più insigni personalità del mondo dell'arte e della letteratura, sedeva rapita ai piedi della padrona di casa. Una volta la madre le aveva scritto che Ingram, il famoso pittore, aveva partecipato all'ultimo ricevimento e che, incantato dalla bellezza di Judith, aveva chiesto licenza di ritrarla. No, l'Inghilterra non era più un luogo per lei, ora il suo posto era a Cockenzie. L'unica cosa che le restava da fare era ciò che la sua governante soleva definire affinare la mente. Forse se fosse riuscita ad affinarla a sufficienza, Robert avrebbe ripreso a parlarle e questa volta non solo quale suo tesorino, bensì quale compagna di vita dotata di statura intellettuale di pari livello. Chissà mai che alla fine non sarebbe davvero riuscita a diventare una reale compagna, qualcuno con cui condividere in tutto e per tutto la propria esistenza? Non solo una moglie, ma anche una sorta di assistente che per gradi avesse imparato a lavorare in modo concentrato e analitico, acquisendo una certa perizia nelle attività di laboratorio. Entrò in casa e senza indugiare oltre rinnovò gli abbonamenti a lungo sospesi di Times, Spectator, Clarion, Highbury Journal e tutto il resto. Richiese inoltre un catalogo delle più recenti pubblicazioni di saggistica, oltre le sue ambizioni erano troppo elevate per accontentarsi di semplici romanzi, e ordinò il volume First Principles di Herbert Spencer, ritenendo che fosse giunto il momento di adottare dei principi, soprattutto principi basilari. Aggiunse alla missiva una postilla ringraziando per qualsiasi suggerimento da parte del libraio riguardo eventuali libri adatti a una donna sposata. Trascorse poi il resto della serata e i 2 giorni successivi gettando le fondamenta della sua preparazione al ruolo di compagna, consultando la voce concime sull'Enciclopedia Britannica e parafrasandola in osservazioni di natura colloquiale che, come fu piacevolmente sorpresa di notare, suonarono incredibilmente argute alle sue orecchie quando 3 giorni dopo, all'ora del tè, le provò su Herd Remmel. Fu però ancora più stupita quando Herd Remmel, dopo aver ascoltato, produsse una serie di controargomentazioni che andavano a confutare le sue tesi. Ma non è possibile, esordì. Poi si bloccò, avvertendo dentro di sé tutto il disagio di una persona impossibilitata a replicare senza dover rivelare l'espediente dell'enciclopedia. Capitolo 27. Questi fatti accadevano a maggio. Entro il mese di maggio dell'anno successivo, Ingeborg aveva letto una tale quantità di materiale da sentirsi quasi a disagio. Era stata una lettura alquanto caotica, dove Ruskin spintonava Roger Fry e Shelley non si decideva a sciogliersi dall'abbraccio di Mansfield. Il libraio, la cui giovinezza doveva evidentemente essersi conclusa anni addietro, le inviava senza eccezione testi di letteratura del primo periodo vittoriano, del tardo periodo vittoriano oppure del periodo pre-vittoriano. Lei, ordinando a sua volta i libri che venivano pubblicizzati nelle riviste settimanali, si ritrovava un giorno nella placida stretta dei poeti laghisti ed esortata alla disciplina da Marinetti il successivo. In quello dopo, ancora, bighellonava con noncuranza in compagnia di Lamb per ritrovarsi intrappolata nelle soavi tortuosità di Harry James all'indomani. Lesse diari di viaggio e divenne esperta nel mescolare le sessioni di studio con l'espletamento dei suoi doveri di cuoca. Tenendo appoggiato Keats alla credenza della cucina, poteva correre da lui per bearsi di un nuovo verso anche nel bel mezzo della preparazione del pudding, senza quasi che il pudding stesso avesse a risentirne. E poiché adorava poter ascoltare a voce alta le belle parole che andava imparando nella cucina, già pervasa da un piacevole borbottio di sottofondo, Si formò presto una sorta di casereccia sinfonia, i cui due strumenti di maggior spicco erano la voce di Ingeborg che mormorava sonetti e il ronzio delle mosche. E benché si apprestasse ad affrontare questa nuova vita con la giusta dose di solennità, non era forse una donna sola, un tronco mozzato il cui marito aveva cessato di amarla e i cui figli le erano stati strappati dal seno, la gaiezza in qualche modo riusciva sempre a insinuarsi in lei, a penetrarne il suo cuore. Ciò che più ostacolava la sua permanenza nelle regioni della tristezza era che ogni giorno non mancava mai di offrirle un nuovo radioso mattino. Era una donna di grandi entusiasmi, con una propensione spirituale all'estasi che sviluppò in lei un talento speciale per i fremiti. Alla minima provocazione sentiva la pelle accapponarsi, di gioia per una poesia, di ammirazione per un quadro, di un brivido elettrico e vibrante per la reazione che lei scatenava nei racconti della bellezza. La bellezza delle cattedrali francesi, per esempio, intricati miracoli di vetro colorato delicatamente sostenuti dalla pietra. Leggendone la descrizione non poteva esimersi dal pensare a tali squisiti, leggiadri capolavori di arte vetraria, come opere nate dall'alito divino piuttosto che dalla mano dell'uomo. E così, la bellezza dei luoghi, la laguna attorno a Venezia all'alba, il deserto al calare della sera e poi la bellezza dell'amore, dell'amor puro, fedele ed equanime. Infine tutta la bellezza forgiata dall'uomo con le proprie mani, piccoli strumenti callosi che si affaccendavano sulla materia inerte, fosse essa pietra, vetro o tela, modellandola e rimodellandola fino a che la visione, pura idea generata da una mente sublimata per l'eternità in un tripudio di linee e colori, si materializzava. Ingeborg si struggeva dal desiderio di parlare delle opere meravigliose, vivide e suggestive, di cui sembrava intessuta la vita al di fuori di Köckense. Chissà che cosa si provava a parlare con persone che sapevano e che avevano visto, e chissà quale delizia osservare con i propri occhi, poter viaggiare, poter visitare la Francia e le sue cattedrali, o andare in Italia in primavera, quando i monumenti considerati i più preziosi gioielli d'architettura esistenti al mondo potevano essere ammirati in una cornice di cieli azzurri e fioriture generose. Oppure ancora partire in autunno, quando Köckense era grigia e oppressa dalle tempeste, verso il luogo dove il sole rendeva d'oro la corteccia e la chioma dei castagni e l'aria profumava di uva matura. L'unica cosa che lei aveva visto era stata il Righi. Beh, era già qualcosa e comunque non le sembrava del tutto fuori luogo per la moglie di un pastore. Concentrò di nuovo la sua attenzione sui libri. Sentiva in quel momento di avere già molto e per giunta aveva trovato nel villaggio una donna anziana alla quale non spiaceva troppo essere confortata. Così, oltre a tutto il resto, ora poteva assaporare anche l'altrui gratitudine. Quella primavera sembrò che Ingeborg fosse destinata a vivere un crescendo di soddisfazioni, poiché a ridosso di quella novità ne capitò subito un'altra, cioè la gioia a lungo agognata di avere qualcuno con cui parlare. E definirlo qualcuno era senz'altro riduttivo, pensava Ingeborg, sbalordita per la fortuna che le era toccata. Si trattava di Ingram. Stava remando sul lago con il barchino come al solito, i libri impilati ai piedi, quando, oltrepassando la lingua del canneto che si estendeva oltre la baia, nascondendola alla vista, notò che quel giorno la sua spiaggetta non era vuota. Fermandosi stupefatta con il remo in aria, vide immerso in una moltitudine di oggetti sparpagliati attorno a sé, oggetti chiaramente pertinenti all'arte della pittura, un uomo seduto con i gomiti appoggiati alle ginocchia, piegate e mentone alla mano, nel quale riconobbe Ingram. Non faceva nulla di particolare, semplicemente fissava il vuoto. Ingeborg sboccò da oltre il canneto in silenzio, trascinata lentamente dalla corrente verso il centro del lago e dunque verso il centro del suo campo visivo. Per un attimo egli rimase immobile, mentre lei, tenendo sollevato il remo dall'acqua, lo osservò assumendo a sua volta una posa altrettanto statica. Poi lui afferrò il suo album da disegno e furiosamente iniziò ad abbozzare uno schizzo. Ingeborg era immersa nella luce del sole ed era senza cappello. Sullo sfondo dell'acqua e del cielo, la sua chioma assumeva le sfumature più strane. Il pittore pensò che fosse più simile al tono di un larice in autunno, di qualunque altra cosa egli avesse mai visto. All'improvviso si sentì colpito dal modo in cui quella macchia cromatica fendeva il pallore e le forme indefinite delle canne, dell'acqua e del cielo del nord punteggiate di nuvole. «Non muovetevi!» le gridò in una lingua che riteneva fosse tedesco, senza cessare di delineare schizzi di forme e colori quasi con violenza. «Siete proprio voi!» gli rispose in inglese con la voce fremente di gioia. «Io Sì, certo che sono io, replicò lui mentre la matita correva lesta sulla carta. Non l'aveva riconosciuta. In 7 anni aveva incontrato troppe persone per trattenere nella mente la figuretta immersa nella nebbia di quel pomeriggio di novembre. Arrivo subito, gridò al suo indirizzo affondando il remo nell'acqua. State seduta e non muovetevi, le intimò. Ma io voglio parlarvi. Sedetevi e non muovetevi. Ella obbedì, fissandolo, incapace di credere a tanta fortuna. Che sollievo, che conforto sarebbe stato se fosse ritornato per fermarsi anche un solo giorno e avesse consentito parlare con lei almeno per un'ora. Parlare in inglese, parlare con qualcuno che aveva dipinto Judith, parlare a un artista tanto straordinario, ma soprattutto parlare. Come una persona vissuta su un'isola deserta, non si sentiva per niente intimidita di fronte a un nuovo venuto, nemmeno se si fosse trattato di un re che dopo anni approdasse all'improvviso. Ebbene, gli chiese, dopo essere rimasta seduta immobile per 5 minuti, un lasso di tempo che le era parso interminabile. Lui non le badò, troppo assorto nel suo schizzo. Ingeborg attese per quella che le sembrò un'altra mezz'ora, poi virò con il barchino in direzione della riva. Arrivo! Gridò al suo indirizzo, e poiché lui ancora non rispondeva, prese a remare vigorosamente verso la baia. Mentre lei gli si avvicinava, lui rimase a fissarla, il capo un poco reclinato da una parte. Che cosa fate? Le chiese, vedendo che stava compiendo delle manovre per dirigere la barca verso l'angolo ombreggiato della chioma della quercia. Scendo a terra, annunciò Ingeborg. Egli si alzò e afferrò la catena assicurata alla prua dell'imbarcazione, tirando alla riva. Lieta di rivedervi, disse, balzando fuori e offrendo la mano per un saluto. Mister Ingram, aggiunse, sollevando lo sguardo per osservarlo meglio, il viso composto, in un'espressione solenne per celare il suo troppo vivo compiacimento. E voi? Chi sareste? Le chiese, restituendo la stretta di mano e fissandola. I suoi abiti, ora che la vedeva in tutta la sua altezza, erano di foggia piuttosto antiquata e gli ricordavano vecchie immagini apparse su Punch. Di certo non siete ospite dei Glambeck e a parte casa loro non vi è altro posto in cui stare. Vi ho già detto una volta che sono la moglie del pastore. Davvero? Sì, l'ultima volta che ci siamo incontrati e lo sono ancora. E quando sarebbe stata quella volta? Non ricordate? Anche allora stavate dai Glambeck. Ma è da un'eternità che io non sono ospite dei Glambeck. Saranno trascorsi almeno 10 anni. 7. Lo corresse Ingeborg, anzi 7 e mezzo, dato che era novembre. Ma a quei tempi dovevate essere così giovane che di certo indossavate un grembiulino. Voi mi accompagnaste lungo il viale. Non ricordate? No, disse Ingram fissandola. E mi sgridasse perché non riuscivo a stare al vostro passo. Non ricordate? No, disse Ingram. E mi diceste anche che se non avessi agito con maggior saggezza avrei finito per buttare all'ortica la mia esistenza. Ricordate? No, disse Ingram. Quel giorno indossavo un cappotto e una gonna di color grigio. Possibile che non vi ricordiate? No, no e no, disse Ingram battendosi la fronte. E non credo una parola di tutto ciò. Vi state inventando tutto, sentite. Le disse spostando il guazzabuglio dei suoi ammenicoli per farle posto. Sedetevi qui e parliamo. Siete una donna in carne e ossa. Certo che lo sono. E vivo a Kirkensee, proprio qui, dietro l'angolo, oltre il canneto. Ma vi ho già detto anche quello. Voi vivete? Le chiese spingendo a lato i suoi arnesi. Siete certa di non essere solo un folletto dalla chioma infuocata che popola i sogni che scomparirà in un battibaleno? Mi chiamo Dremel, Frau Dremel. Come vi ho già detto in passato. Oh, le cose che un uomo dimentica, esclamò allargando un fazzoletto di seta sullo spiazzo erboso. Ecco, sedetevi qua. Vi state prendendo gioco di me? Ribatté lei sedendosi, ma non me ne importa nulla. Sono troppo felice di rivedervi. Se rido è solo per piacere, disse, osservando con attenzione il contrasto della sua figura contro lo sfondo verde pallido del canneto, dove aveva già visto quelle sfumature, quella colorazione tipicamente scandinava, quel genere di capigliatura da riflessi infuocati. Il fatto che vi chiamate Frau, vate la pesca, mi fa ridere, in effetti. Ingeborg lanciò al suo indirizzo un sorriso franco, aperto, come quello di un ragazzino soddisfatto. Siete molto carina, sapete? Gli disse sorridendole di rimando. Non pensavate la stessa cosa quando ci siamo visti l'ultima volta? Mi avete apostrofata con severità, appellandomi cara signora, e mi avete chiesto se avessi mai letto qualcosa in vita mia. E voi l'avete fatto? Le chiese, sedendosi a sua volta, ma un poco discosto, in modo da poter avere nell'insieme una migliore inquadratura di lei. Sì, ecco, sedetevi, almeno non sarò così terrorizzata che possiate andarvene. Ma se vi ho appena trovata? Ma anche quell'altra volta mi avevate appena trovata e siete ugualmente scomparso, inghiottito dalla nebbia. Gli ricordò, cingendosi le ginocchia con le braccia e componendo il viso in un'espressione di perfetta felicità. Allora, in 7 anni ne ho fatti di progressi, affermò, se allora non ero in grado di accorgermi di quel che avevo sotto gli occhi. No, credo sia stata colpa mia. Ero io ad essere invisibile. Invisibile? Sì, divorata dalle tarme, decrepita, ingrigita. E poi avevo appena smesso di piangere. Voi? Sentite, nessuno con una carnagione come la vostra dovrebbe mai piangere. Sarebbe un peccato mortale. Se foste ancora più bianca di quanto lo siete in questo momento, sarebbe un segnale alquanto inquietante, credetemi. Vedete quanto è bello non essere un pittore, disse Ingeborg. A me non interessa affatto se siete pallido o meno, mi basta che si tratti di voi. E perché mai dovrebbe bastarvi che sia io? Chiese Ingram, che abituato da sempre alle lusinghe le apprezzava molto. In quel momento stava provando la sensazione piacevole che prova il gatto quando sente dietro le orecchie la carezza gentile della mano del padrone. Perché, disse Ingeborg seriamente, voi siete una persona meravigliosa. Ora mi metterò a fare le fusa, disse. E perché leggo il vostro nome sui giornali almeno una volta alla settimana, aggiunse. Oh, gioie visibilio! E so che Berlino ha acquistato due delle vostre opere, opere annoverate nel patrimonio artistico della nazione. Sì, è vero, e ha mercanteggiato fino a giudicarsele a un prezzo stracciato. Inoltre avete ritratto mia sorella. Che cosa? Ribatté all'istante osservandola di nuovo. Ma certo, ecco che mi ricordate, la straordinaria Judith. Siete così amici? Domandò stupita. Beh, si tratta pur sempre della moglie del rettore della Nanè. Tributiamole il giusto onore. È in assoluto la donna più bella che abbia mai visto, ma cosa? Beh, le ho fatto un ottimo ritratto, ma al vecchio non è piaciuto. Quale vecchio? Suo marito ha tentato di impedire che lo mostrassi in giro e così pure quell'altro vecchio. Quale altro vecchio? Il vescovo. Ma non avete detto che era molto bello? Sì, assolutamente perfetto. L'esatta riproduzione di una donna vivente, un ritratto di squisita, palpitante carnalità. Ma allora? Oh, sapete come sono i vescovi? Disse facendo spallucce. Ora è in Italia, a Venezia. L'ha acquistato lo Stato. Dovete andare a vederlo la prossima volta che vi recherete a Venezia. Sì, la prossima volta senza alcun dubbio, replicò ridendo di gusto, proprio come chi si è in preda al più spassoso sollazzo. A quel tempo, Ingram aveva 43 o 44 anni e il suo fisico era più asciutto che mai. Di alta corporatura, aveva le spalle strette. Visto da dietro, il suo collo sottile sbucava vistosamente dal colletto della camicia, mentre davanti era in parte nascosto dalla corta barba rossiccia. I capelli, più scuri della barba, aderivano ordinatamente alla testa. Aveva occhi chiari, penetranti e un naso che piaceva a Ingeborg. Del resto le piaceva tutto di lui. Le piacevano i suoi abiti di tweed, le mani grandi con dita flessuose, mani meravigliose che sulla tela producevano miracoli, e le sue gambe lunghe e agili. Poi le piaceva il fatto che non riuscisse a star fermo nemmeno per un attimo, e la velocità dei suoi movimenti. E l'essere seduta vicino a un uomo il cui nome appariva sui giornali almeno una volta alla settimana e le cui opere venivano acquistate dai governi, la riempivano di orgoglio. Si sentiva enormemente felice, perché questa volta lui non sembrava ansioso di ritornare subito a casa a Glambeck e il suo cuore palpitava di gioia, di incredibile celestiale felicità, soprattutto per aver qualcuno con cui parlare. Così voi siete sua sorella, le disse fissandola. Davvero sorprendente. Via, non tutti possono essere così belli. Sua sorella qui, seppellita in questo deserto. Perché questo è un deserto, sapete? Sono venuto qui perché stavo cercando un deserto. Può capitare a volte, dopo aver avuto troppo dell'esatto contrario. Io però andrò via di nuovo, mentre voi rimarrete. Cosa avete fatto tutti questi anni da quando sono partito l'ultima volta? Sono stata occupata. Ma di certo non qui, siete rimasta qui per tutto quel tempo? Sì, solo ed esclusivamente qui. Cosa? Non siete mai andata via? Sono stata una volta a Zoppot. Zoppot? E dove si trova Zoppot? Non ho mai sentito parlare. Non credo si tratti di un bel posto. State dicendo che da quando sono stato qui voi non siete mai stati in una città, in un luogo dove le persone parlano, ascoltano e interagiscono in una varietà di modi per mantenersi vive? Ma la moglie di un pastore non interagisce in una varietà di modi. Non posso crederci. Rimanere qui per tutto quel tempo equivarrebbe a morire. E perché non mi siete mai allontanata? Perché non ho potuto. Ora non verrete a dirmi che non avete mai avuto nemmeno una possibilità di liberarvi dal giogo della famiglia. Aspettate di diventare la moglie di un pastore, vedrete. Ma come riuscite ad essere così viva? Perché voi risplendete di vita? Se penso a tutte le cose che ho fatto da quando sono stato qui l'ultima volta, non appena ebbe pronunciato queste parole si interruppe. Il suo sguardo si distolse da Ingeborg e attraversò il lago. Oh, beh, a dire il vero, sono state per lo più cose disgustose, confessò concludendo la frase. Dei dipinti meravigliosi, disse Ingeborg piegandosi in avanti e arrossendo per l'entusiasmo. Ecco ciò che avete fatto. Sì, dipingere, ancora dipingere. In realtà, ciò che è disgustoso è il modo in cui ho trascorso il tempo tra un dipinto e l'altro, tra un attacco di operosità e quello successivo. Poi, come passate il tempo che c'è nel mezzo? Nel mezzo di cosa? Tra ciò che fate al mattino e ciò che fate alla sera? Lo passo divertendomi? Sì, giusto. Quello piace anche a me. E perché non lo fate? Perché non posso. Ma come sarebbe dire che non potete? Vivete completamente immerso nella bellezza, la forgiate con il vostro talento, ne cospargete il mondo a piene mani. Si interruppe bruscamente, colpita da un pensiero improvviso. Vi chiedo scusa, non so nulla di voi. Siete forse in lutto? Lui la osservò. No, non sono affatto in lutto. O forse no, non siete malato e non potete nemmeno essere povero. Beh, allora perché mai non potete divertirvi? Non vi capita mai di annoiarvi? Non c'è abbastanza tempo in una giornata per riuscire ad annoiarmi. Lui abbracciò con lo sguardo il paesaggio intorno e rabbrividì. Qui, a Kökensee, disse, ora è primavera. Ma che cosa fate nelle giornate di pioggia? Quelle giornate che si trascinano lugubri, infinite. E come riuscite a superare quei mesi insopportabili come ad esempio febbraio? Si voltò verso di lei. Dovete di certo essere un piccolo scrigno di perfetta felicità, sempre in fermento, che si alimenta unicamente del calore e della gioia che risiedono nel vostro cuore. Nessuno mi aveva mai chiamata scrigno di felicità prima d'ora, disse Ingeborg abbracciandosi le ginocchia, gli occhi che sprizzavano gioia. Produco una strana impressione per essere una donna rispettabile. È senza dubbio il dono più prezioso che si possa avere, il più grande in assoluto, la propria felicità. Da portare con sé ovunque. Ma è esattamente ciò che fate voi. Non ne trabocca un po' fuori dalla vostra persona a ogni passo. Non ne create infinite pozze lungo le gallerie d'arte di tutto il mondo. Non lasciate forse la bellezza dietro di voi ovunque andiate. Ingram si districò le membra per stendersi in tutta la sua lunghezza e la fissò. Che cose deliziose dite, affermò. Vorrei poter credere le pensiate davvero. Pensarle davvero, esclamò Ingeborg improporandosi di nuovo. Credete forse che sprecherei preziosi minuti dicendo cose che non penso? Sono anni che non parlo davvero con qualcuno, o perlomeno con qualcuno che si prende la briga di rispondermi. E ora capitate voi. Figurarsi se mi permetterei di sprecare anche un solo secondo. Siete la persona più bizzarra, più sorprendente in assoluto da trovare in un luogo come questo, ai confini del mondo, le disse sollevando lo sguardo per osservarla bene. E poi il sole che attraversa le fronde degli alberi colpisce giusto la vostra chioma. Siete sempre così piena di entusiasmo per il prossimo. Solo per voi. Oh cielo, che cosa dovrei mai rispondere a queste ripetute lusinghe? Gemette. Siete entrato nei miei pensieri il giorno che vi ho incontrato e ci siete rimasto per sempre. Mi trovavo allo stremo delle forze, nella più nera abiezione. Voi mi avete tirata fuori. La fissò, il mento poggiato nell'incavo della mano. Pensa un po', io che tiro qualcuno fuori da qualcosa. Di solito ce li tiro dentro. E ho anche avuto una serie di ricadute. Ben cinque. Cinque? Ingeborg annuì. Sì, cinque da allora. Ma ora sono qui, palpitante di gioia, come dite voi. È solo merito vostro se ho iniziato a palpitare. Credo che una volta iniziato continuerò per sempre, ininterrottamente. Ingram allungò la mano con un movimento lesto, come volesse toccare un lembo della sua veste. Insegnatemi a palpitare di gioia, le disse. Ma sarebbe come se una stella chiedesse a un verme di insegnarla a brillare. È meraviglioso, disse in un soffio dopo aver assimilato quel che lei aveva detto. Starsene qui, sdraiati, e assaporare la dolcezza di queste parole. Perché non vi ho scovata prima? Ho trascorso un'intera settimana dai Glambeck annoiandomi a morte. Siete già qui da una settimana, chiese in tono ansioso. Allora ripartirete presto. In teoria dovrà ripartire domani. Proprio come l'altra volta, quando vi ho incontrato stavate per partire. Ma ora credo che rimarrò. Rimarrò e vi farò il ritratto. Ingeborg ebbe un sussulto. Oh, sì, desidero ritrarvi. Ritrarvi e ancora ritrarvi, a Sir Ingram, per vedere se riesco a rubare un po' della vostra felicità e tenerla per me. Ho intenzione di scoprire il vostro segreto, capire da dove ha origine. Ha origine nella vostra vicinanza. La felicità che ho dentro adesso è tutta per merito vostro. Non è vero. Alberga in voi e io voglio impossessarmene nella maggior quantità possibile. Sono coperto di polvere, accaldato e tediato a morte di ogni cosa. Verrò stare vicino a voi e vi ritrarrò. Così mi renderete di nuovo fresco e puro. Oh, quali cose sapete dire? Esclamò chinandosi in avanti con un'espressione ilare dipinta in viso. Come se io potessi rivelarmi utile a voi. State soltanto prendendovi gioco di me. Non mi interessano, non mi importa purché non andiate via. Non c'è proprio alcun pericolo che me ne vada. Ho intenzione di immergermi in questo limbo di lontananza e quiete. Lascerò i Glambeck e mi troverò un alloggio al vostro villaggio. Verrò ogni giorno per ritrarvi. Siete come una piccola foglia dorata, una foglia di faggio che il vento d'autunno ha soffiato via da chissà dove e posto sul mio cammino. Ora siete voi che mi fate fare le fusa, disse lei. Voi siete come tutto ciò che è chiaro, limpido, fresco e puro. Oh, si schermì Ingeborg radiosa. Come vorrei avere una coda con cui scodinzolare. Dopo appena 10 minuti trascorsi con voi mi sento già come se stessi pasteggiando a foglie di lattuga fresche, ancora bagnate di rugiada appena colte. Questo non è minimamente paragonabile a ciò che avete detto prima. Non mi piace l'idea della lattuga. Non mi interessa, per me è così. Vi farò un ritratto, il ritratto della vostra anima. Datemi qualche indirizzo, ove posso cercare un alloggio, disse producendo una matita e un foglio di carta. Ma al villaggio non vi sono alloggi. Allora dovrò stare alla vostra canonica. In tal caso dovrete dormire con Robert. Cosa? E chi sarebbe Robert? Mio marito! Ah, già, che assurdità! Cosa? Il fatto che abbiate un marito. Non capisco come sia possibile non avere un marito quando si ha una moglie. Infatti, è inevitabile. Ma è bizzarro che possiate essere la moglie di qualcuno, figurarsi poi di un pastore, il pastore di Kökense. Ad un tratto Ingeborg si alzò. Venite a fargli visita, disse. L'ultima volta non l'avete fatto. Venite ora, lasciate che vi prepari il tè. Fatemi l'onore di lasciare che vi prepari il tè. Non intenderete dire proprio ora, la implorò. Mentre lei lo sovrastava con la mano tesa per aiutarlo ad alzarsi. Sì, adesso è a casa. Più tardi sarà fuori, nei campi. Sono certa che gli farà terribilmente piacere. Gli diremo del ritratto, ma dicevate sul serio, non è vero? Gli domandò improvvisamente colta dall'ansia. Lui si alzò con riluttanza, lagnandosi. Non voglio vedere Robert. Perché dovrei farlo? E poi non credo che mi piacerà, bofonchiò, lasciando cadere lo sguardo su di lei da un'altezza che le apparve astrale. Certo che dicevo sul serio, aggiunse poi in tono diverso, solerte e interessato. Potrà comporre un dittico con il ritratto di vostra sorella, produsse una breve risata. Ecco, qualcosa di veramente divertente, disse chinandosi e raccogliendo in modo meticoloso tutti gli accessori sparpagliati attorno a lui. Ingeborg arrossì. Trovo che sia piuttosto Crudele prendervi gioco di me, non credete? Mormorò. Perché? Le domandò raddrizzandosi per guardarla meglio. Ogni traccia di luminosità era fluita dal suo viso. Perché? Non vi ho forse detto che dipingerà il ritratto della vostra anima? Si avventò sugli attrezzi e li raccolse in una capace bracciata. Su via, le disse in tono impaziente, siate intelligente, lasciatevi convincere a comportarvi in modo intelligente. Suppongo di dover entrare in questo barchino. Ma che cosa c'è qui? Dozzine di libri? Cos'è questo? Eucken, Keats, il pragmatismo? Oddio! Perché dite oddio? Gli domandò entrando a sua volta e raccogliendo il remo mentre lui con un poderoso colpo di gamba imprimeva una spinta all'imbarcazione. Poi con un balzo, quando questa ebbe lasciato la riva, saltò a bordo. Ingeborg era tornata a essere radiosa, fremente di gioia e orgoglio. Allora lui era serio quando parlava del ritratto. Non si era preso gioco di lei. No, niente affatto. Perché avete detto oddio? Disse reiterando la domanda. Avete già prodotto un'esclamazione del genere la volta scorsa, ma in quel caso perché non leggevo? E adesso lo dico perché lo fate, enunciò, accucciandosi all'estremità opposta della barca e osservando i movimenti di lei mentre remava. La vostra linea di pensiero non mi sembra molto coerente, disse Ingeborg. Al diavolo la coerenza! Non voglio che vi frastorniate la mente, ecco tutto. Ma se vi rovescereste dentro tutte quelle letture, così disparate, succederà di certo. Preferisco di gran lunga una mente frastornata piuttosto che vuota. Sciocchezze! Se ne avessi il potere farei sì che cessaste di compiere qualsiasi attività che possa alterare anche una sola cellula di ciò che siete in questo preciso istante. Con il remo a mezz'aria, Ingeborg reagì rispondendo che quella trovata era davvero irresistibile. Il viso di lei scintillava quanto le gocce d'acqua che, staccandosi dal remo, ricadevano con una parabola nel lago. Entrambi risero di gusto. Una volta a casa, Ingram attese in salotto, dove osservò con attenti occhi ogni dettaglio di quella stanza trascurata, un locale evidentemente tenuto in poca considerazione, mentre Ingeborg si dirigeva verso il laboratorio per prelevare Robert, come aveva detto a Ingram, così felice e orgogliosa da dimenticare di stare infrangendo le regole. Robert, comunque, rifiutò di lasciarsi prelevare. Come accadeva invariabilmente nelle rare occasioni in cui la gravità di ciò che aveva da riferire appariva a Ingeborg sufficiente a giustificare la sua condotta, non appena la vide entrare, la fissò con grande riprovazione, dato che era giusto arrivato, dopo una serie di parziali progressi ottenuti con grande fatica, al punto cruciale della soluzione di un problema. «E c'è qui Mr. Ingram!» annunciò Ingeborg senza fiato. Egli la osservò da sopra gli occhiali. «In salotto, è venuto per il tè!» Non è meraviglioso? Ha detto che intende dipingere. Chi c'è qui, Ingeborg? Ingram, Edward Ingram. Vieni a intrattenerlo mentre preparo il tè. Presa dall'agitazione, aveva dimenticato di chiudere la porta e un refolo di vento, insinuatosi attraverso la finestra, sollevò le scartoffie di Herr Dremmel, facendole vorticare in aria. Egli prese a inseguirle e le chiese in tono di controllata irritazione di chiudere la porta. Oh, che sciocca! Esclamò lei, ubbidendo all'istante, benché con un'espressione gaia in viso. Non conosco nessun Mr. Ingram, la informò Herr Dremmel, trattenendosi a stento dalla collera. Ma Robert, si tratta del famoso Mr. Ingram, Edward Ingram, il più grande artista vivente, il grande ritrattista. Berlino ha qualcosa a che fare con la tua famiglia, Ingeborg? No, ma ha fatto il ritratto a. Allora non è necessario che io interrompa la mia attività pomeridiana per lui. Così dicendo, si chinò nuovamente sui suoi fogli. Ma Robert è un personaggio importante, famoso in tutto il mondo. Herr Dremmel, umettandosi un dito, riordinò i suoi appunti. E gli ho già detto che saresti stato felice di conoscerlo. Che cosa gli dirò ora se non verrai? Herr Dremmel, lo sguardo catturato da una frase che aveva scritto, stava leggendo con grande concentrazione. Ma c'è il tè. Tentò di convincerlo Ingeborg con disperazione. Tu vieni sempre per il tè. Sarà pronto tra un attimo. Lui sollevò lo sguardo e si accorse di nuovo della sua presenza. Il tè? Disse. Ma proprio mentre pronunciava quelle parole, la sua attenzione venne catturata nuovamente dal problema in esame e senza distogliere lo sguardo dalla moglie, prese a considerarne un nuovo aspetto che gli era sovvenuto in quel preciso istante. A Ingeborg Non rimase altro da fare che uscire dal laboratorio.